così dal regno dei cornetti alla crema, il bar dello Stretto in via Calabria. Oggi una puntata speciale di Io con Vittor Cino e Alessandra Mammoliti. Ciao, ciao a tutti. Ospiti dei nostri microfoni, li vuoi dire tu? No, io sono i tuoi ospiti. Sono Francesco Bonaccorso, e qui non mi potevo sbagliare, buongiorno Francesco. E Paolo Roberto Santo. Ma grazie. Quanto ti ho salvato. Ma grazie, ma grazie. È buongiorno. Sempre così, buongiorno ragazzi, buongiorno, come state intanto, come state? Tutto bene, insomma, a parte il caldo. A parte il caldo, sì, e sì, il fatto sì, che sì, dobbiamo stare vicini per parlare nello stesso vicini, microfono, vicini. Ancora esatto, più caldo. Esatto. Potete parlare effetto uno alla volta e spostare il microfono se volete. Hai ragione, un'idea geniale alla quale non avevamo pensato. Esatto. Non avevate mai pensato. In ogni caso, voi siete qui non per un motivo a naso, a caso, ma per presentarci uno spettacolo che è molto importante, uno spettacolo che è Il Manifesto. Esatto, esattamente. Il manifesto di che cosa? Perché uno spettacolo che si chiama Il Manifesto manifesta? Allora, perché sostanzialmente il protagonista è un uomo sandwich, quindi un uomo che pubblicizza un prodotto ed è quindi un manifesto. Più vicino, più vicino. Ah. Scusate, perché il protagonista sostanzialmente è un uomo sandwich, quindi un uomo che pubblicizza un prodotto, quindi un vero e proprio manifesto umano. Bellissimo, io ho sempre desiderato fare il sandwich, non il manifesto, però insomma lo porteranno a fare questa cosa a diverse vicissitudini, diverse peripezie, per sì, dire. Sì, esattamente. Per dire. Sì, racconto in sintesi, diciamo, il protagonista. Il un po'. Sì, esattamente. Non è pensavi che conoscessi una parola così importante. Esattamente, infatti sei rimasto mi sorpreso. Devo riprendere un attimo, ecco. Sei rimasto sorpreso. Sì, sostanzialmente è la storia di questo ragazzo fuori sede che ha da poco finito il percorso universitario e si approccia al mondo del lavoro, però fra tanti colloqui andati a male, l'unica opportunità che gli arriva è un lavoro come manifesto umano, come uomo sandwich, per un nuovo modello di carta igienica. Quindi da qui nasce il manifesto. Esattamente, esattamente. Quindi lui vaga comunque per le strade alla ricerca di persone con cui gli diano attenzione. E man mano che vaga e che vede comunque che non ci sono dei risultati tangibili, comincia quello che era la ricerca del lavoro diventa l'anticamera per una ricerca più profonda, che è la ricerca della propria identità, quindi del proprio stare al mondo. E quindi comincia a fare un percorso che è a ritroso. Comincia a chiedersi perché sia in quel momento in mezzo alla strada a pubblicizzare un modello di carta igienica, e comincia a fare un rewind, esatto, di tutto quello che è successo prima e del perché comunque si trovi in quella situazione, e quindi dalle cose che non ha detto, dalle cose che poteva dire, dalla sicurezza comunque che poteva tirare fuori. Le famose scelte di cui tutti poi paghiamo le conseguenze o guadagniamo sì, i frutti. Sì, anche la relazione con gli altri, e quindi mi è piaciuta questa il bar. <c'è> una... Sì, siamo al bar, siamo in una situazione assolutamente esatto, comfortable, anche se c'è un po' di caldino. Francesco è l'attore protagonista di questa, di questa teatrale, macchina da guerra. È l'attore protagonista di questo... Esatto, ciao, sono il protagonista. Tra l'altro fantastico, tu mi hai fatto questa domanda, perché i miei due follower in questo momento su Instagram mi hanno fatto la stessa domanda: interpreti tu il manifesto? Sì, io sono il manifesto. Esattamente. Sei il sandwich, il club sandwich. Sono il sandwich, esatto, sono il club sandwich, sono l'uomo, sono il companatico, diciamo, il pane e il sandwich, io sono quello che c'è. Sì, esattamente, esattamente. Sì. E com'è stato approcciarti a questo personaggio? E hai fatto pure tu un rewind nella tua vita per capire le scelte che ti avevano portato a interpretare questo personaggio? Decisamente sì, visto wow, il mestiere che faccio è abbastanza facile farsi queste domande. No, diciamo che a prescindere da me è stato facile, perché purtroppo da un lato è una storia molto 2021, nel senso che la nostra generazione, più o meno quella degli anni 80-90, ha chiaramente subito un po' questa, questa difficoltà nel ricercare un lavoro, nel, anche essendo molto preparati, e quindi magari ci sono tanti laureati al, a spasso, ci sono tante persone che hanno dottorati, master e finiscono a fare lavori improponibili, diciamo che è una cosa che probabilmente la generazione dei nostri genitori non ha vissuto. E invece la nostra sì, quindi diciamo che un po' tutti, no? Chiaro, è un problema italiano, non è un problema del ragazzo del manifesto. È un problema generazionale. Il ragazzo si chiama Tommaso. Tommaso. Si chiama Tommaso. Tommaso il ficcanaso. Esatto, Tommaso il ficcanaso, e che però non riesce a trovare nulla, insomma, di buono nella vita. Come un po' tanti. Diciamo che ecco, una cosa molto comune dei giovani di oggi è il fatto di aver fatto tutti dei lavoretti, no? Una cosa che già ai tempi dei nostri genitori non era così comune. Cioè, magari capita a tutti di aver fatto qualcosa, di aver studiato, di essersi preparati, però di aver passato perlomeno un anno, non so, un periodo... Un sabbatico. Esatto, più che sabbatico, insomma, dove non ti si calcola nessuno, per non dire altro, e quindi sei costretto a fare cameriere, questo, quell'altro, promoter, ecco, questo lavoro l'ho fatto anche, quindi non proprio il così, PR. Però mi ci sono ritrovato facilmente, un personaggio molto, molto generazionale, quindi è stato facile interpretarlo. Assolutamente sì, dalla descrizione che avete fatto sembrava che voi stesse descrivendo la generazione zero che ci contraddistingue. E che ne dite se ci sentiamo un pezzo e ricontinuiamo a dialogare esattamente in 3 minuti e 56 secondi? Preferirei 4, però se proprio devono essere 56 va bene. Va bene, dai, that's music, grizza. Se parte, parte, parte, parte. Na na na na na due voci assieme, due voci assieme. Prima dei tempi di Cristo, passa dei sequestor, pure dei transistor. Non è la scuola che detta note sul registro, è la notte in cui reagisco, una notte che registro. È un basso a cinque corde che emula il pentagramma, le grida per le contrazioni del parto di tua mamma. La chiave di violino, l'udito sopraffino, le dita sulla chiave del tuo cuore che ora si infiamma. Chiudiamo i compressori, pompiamo il limite. Quei fili che sono più filini e le lipiche, chiama li cavi al limite. Piccolano stili che pesano chili, odorano di lipidine. Sopra il palco, grazie a lei, raccolgo la sfida. Affondo il colpo finché il silenzio non è suicida. Il studio l'affronto e lei mi guida. Su di lei affronto temi e con lei affronto la vita. Voglio musica, datemi ancora musica. Musica, ancora forte musica. Musica, sempre più forte musica. Musica, tu dammi musica. Spacca tutti i muri e mette in fuga le paure che ho, perché mi fa volare e mi può riscaldare e non mi molla. Lei guida la carica, lei si chiama musica e qui c'è lei che suona ancora. Ed io ci sono ancora e suono ancora. È la musa che mi ispira, che mi manda alla deriva, tramanda le passioni, coi suoni le mette in fila, porta buone vibrazioni nella mia vita, sia che scrivi testi o schiacci tasti con le dita. È la musa che mi ispira, che mi manda alla deriva, tramanda le passioni, coi suoni le mette in fila, porta buone vibrazioni nella mia vita, segue la mia via, non mi lascia solo e non va mai via. È la mia guida, se sono brutto o bello non importa a lei, ma le importa che quando ne ho bisogno spingo il tasto play. Ogni volta che mi rimbocco le coperte penso che sarebbe inutile vivere senza lei. Da Tullio d'Episcopo alle drum machine, ai canti popolari, ai cari Stradivari, al cantino, col DJ piatti, ai battiti che fanno muovere gli arti, poi bassi, medi, alti. Spacca tutti i muri e mette in fuga le paure che ho, perché mi fa volare e mi può riscaldare e non mi molla. Lei guida la carica, lei si chiama musica e c'è lei che suona ancora. ed io ci sono ancora e suono ancora. Io voglio musica, datemi ancora musica, musica, ancora forte musica, musica, sempre più forte musica, musica, tu dammi musica. Noi continuiamo la nostra intervista con i ragazzotti e vi annunciamo che lo spettacolo Il Manifesto sarà non in onda ma a teatro il 21 agosto alle ore 21 al Chiostro di San Francesco di Patti. Patti Marina o Patti Superiore? Patti Marina. No, Superiore. Decidetevi. Non lo so. Patti. Patti. Patti o San Piero Patti? Esatto. Va bene, pensavamo di sapere tutto, invece sapemo, ci hai messo in crisi con questa. Sapevamo quando parti, ma non sapevamo quando arrivi. E detto questo, abbiamo procacciato una domanda per il piccolo Paolo in fuori onda. Bello, il piccolo Paolo, il giovane Paolo. Il giovane Paolo. Come bello mentire. Come bello mentire. Paolo, come siccome tu sei lo scrittore, l'autore della PIE, com'è stato approcciarti alla scrittura di questo testo e com'è il tuo approccio solido al teatro di scrittura? Guarda, io quasi sempre penso prima al personaggio, cioè dopo il personaggio, dopo viene tutto il resto. In questo caso ero in giro a Roma, sul Viale Marconi precisamente, e c'era un ragazzo che appunto faceva l'uomo sandwich. Ok. E diciamo con un'andatura costante e forzata, serenamente, cioè forzatamente serena, procedeva diciamo col suo lavoro, chiedeva alle persone, insomma, quindi vagava per in mezzo alle persone. E da qui è partito tutta una serie di domande che mi sono fatto riguardo a questo possibile personaggio. Man mano che partivano le domande, è partito il testo sostanzialmente. E poi chiaramente in fase di scrittura pensavo alla scena, okay, perché chiaramente è una scrittura che è pensata per l'azione, funzionale, quindi per la scena, assolutamente. Perfetto. Infatti, io ho una domanda. Sì. A proposito di azione teatrale, perché avete parlato di momenti Tommaso torna indietro, no? Per ripensare, sì, un po' al percorso che ha fatto, a quello, sì, che lo ha portato a diventare l'uomo panino. Esatto. del manifesto. In scena questa cosa come accade? Se ci volete dare uno spoiler, perché sì, al cinema riesco a immaginarmi questa cosa, mm-hmm, però a teatro è abbastanza impegnativo, immagino. Allora, diciamo che abbiamo optato per, per una scenografia nuda, quindi ci sono due momenti. Il momento in cui lui dialoga con le persone non ci sono, ci sono soltanto delle luci e delle ombre. Okay. E quindi lui, diciamo, affronta questa sua solitudine dialogando con queste persone che in realtà non lo ascoltano e che sono simboleggiate dalle luci e dalle ombre. Quindi tutta la scenografia è vuota. Nell'allestimento che abbiamo fatto a Roma, al Belli, avevamo usato delle piantane che fungevano da persone ed erano delle piantane che si accendevano quando lui e poi si spegnevano. Però la cosa è il concetto uguale anche per le luci di scena. Poi nella seconda parte lui dialoga con se stesso, perché nel suo andare avanti comunque va avanti e ripercorre il passato e si interroga su tante cose e dialoga realmente con se stesso. Ci sono delle proiezioni, okay, di se stesso, e quindi c'è questo dialogo in cui lui si domanda e ripercorre tante tappe della sua vita. Quindi abbiamo optato per sostanzialmente comunque una scenografia nuda, assolutamente, senza orpelli. Teatro off. Sì, sì, sì, cioè, ma diciamo è stato funzionale. Certo. Sì, sì, sì, sì, sì. Io volevo chiedere una cosa a Francesco. Francesco, dica. Te la sei scordata? Sì, perché mi è arrivato un messaggio che mi hanno rubato un cappello. vabbè, comunque come commento. Sì, commento giustamente. Il signore ha detto in italiano, traduciamo. Accipicchia che caldo che fa oggi. Esatto. E questo spettacolo ti è costato sudore e fatica come tutti o ti sei immedesimato meglio nel... Dovreste essere presenti alle prove per vedere la quantità di magliette che cambio. No, ma non solo, non solo. Cioè, nel senso, anche psicologicamente... Sì, sì, sì, è uno spettacolo, devo dire, forse, anzi, senza alcun dubbio, il più impegnativo che abbia mai fatto, innanzitutto perché non mi sono mai misurato con un monologo, quindi partendo banalmente dalla memoria, insomma, sono 35 pagine di scena. Io questa domanda volevo farsi. Sì. Siccome ho fatto anche io un monologo brevissimo in un pezzo teatrale con i miei amici clan degli attori Mauro Failla e Giovanni Mario Corrò. Non sono riuscito a imparare il secondo monologo perché era pieno di cifre, di cose che dovevi mettere, togliere, 50.000 meno 60.000 più 78 più meno questo. Come fai a confrontarti con questi, con la memoria in questo modo? Guarda, è una domanda che mi fanno in tanti perché sembra una cosa impossibile. Devo dire che non c'è un metodo specifico. La cosa che adotto io è semplicemente quella di non pretendere di imparare tutto subito. Cioè, per fortuna, insieme a lui abbiamo avuto un bel po' di tempo. C'è stata anche una pandemia di mezzo che ha aiutato, diciamo, tra virgolette. Ci siamo presi i nostri tempi. Lui mi ha dato il testo un bel po' prima e diciamo che bene o male cercavo di fare circa una pagina al giorno, diciamo che con la memoria funziona un po' così, quindi spezzettare è l'unico consiglio che posso dare a chi... Ti è capitato in questo caso di modificare qualche parte del testo per agevolarti? Succede, diciamo che una cosa che succede spesso è che studiando una pagina al giorno tu impari quella pagina, la sai benissimo, l'indomani è come se pensassi di essertela scordata. In realtà non è così, è che la memoria deve un po' sedimentare, quindi c'è un momento molto brutto, soprattutto per l'autore, in cui uno inizia a cambiare tutte le parole del testo. E giustamente lui si incazza perché non vi siete scornati perché siete magari scornati. Ti ricordi cosa devi dire ma non proprio le parole precise, no? E quindi capita questo momento bellissimo in cui lui si arrabbia perché dice no, volevo quella parola lì, perché l'hai cambiata? Perché le parole sono importanti, quindi... come diceva Nanni, grande citazione. No, ma poi io, a parte gli scherzi, ho grande rispetto ma per il testo, quindi non vorrei mai farlo, però capita naturalmente. Dopo un po' però succede che, diciamo, inizi a sedimentare quella frase, allora te la ricordi precisa e pian piano, dopo qualche giorno, come per magia, tutti i pezzi vanno al loro posto. E quindi la memoria ovviamente è stata la prima cosa difficile, perché non ho mai fatto un testo così lungo in vita mia. Il primo ostacolo. Sì. E voi come vi siete conosciuti? Questa qua ce l'avevo nel taschino da circa 3 minuti. Allora, è una tipica storia di artisti messinesi, anche se, vabbè, la parola artista la dico scherzosamente perché non mi considero tale, sono al massimo un artigiano. Tu te lo meriti, io no, io al massimo sono un artigiano, un fornaio dell'arte. No, perché magari non ci siamo conosciuti qua, nonostante siamo entrambi di Messina, nati e cresciuti qua, beh, lui è di Rometta, ma insomma praticamente siamo di qua, a parte non è vero, tu sei della panoramica, diciamo la verità, esatto, abita un po' più spesso lì. Non falsare la mia biografia. Scusami, è di Rometta e abita a Roma. No, succede che tramite un'amica in comune ci siamo conosciuti direttamente a Roma. Come spesso capita, siamo i classici emigranti dell'arte, nel senso che fare qualcosa qui professionalmente. Basta che non siete gli emigrati. Ti ricordi quando dicevamo di non accavallarci? Lo stai facendo. Allora. Dai. Niente, succede che allora praticamente ci incontriamo lì, perché lì siamo entrambi trasferiti nello stesso anno, nel 2011, per studiare, diciamo, professionalmente, perché qua abbiamo iniziato entrambi però con dei laboratori più, diciamo, non intensivi, ecco, diciamo, amatoriali, serali, e quindi poi abbiamo deciso di trasferirci là e ci siamo conosciuti là e lì abbiamo sedimentato il nostro rapporto artistico. Very good. Avete cominciato con dei laboratori non intensivi, ma come me, per gioco, per mettermi in discussione, oppure già avevate presente quello che volevate fare? Allora, rispondo io, poi magari faccio rispondere lui. Sì, io assolutamente sì. Ho iniziato per caso, perché facevo tutt'altro, facevo scienze politiche, mi ricordo volevo fare il giornalista, insomma avevo tutt'altra carriera in mente. Poi avevo dato un sacco di esami, inspiegabilmente l'ho lasciata. Vabbè, no, ok. No, in realtà andavo malissimo. Però, quindi... nel senso, non è che ti aspettavo una vita più facile. No, esatto. Io mi sono sempre scelto lavori facili, calciatore, giornalista, attore, sempre lavori facili. E quindi quando ho capito che non faceva per me, ho fatto un laboratorio così per gioco e... Ho iniziato qui a Messina con un corso serale e poi mi sono trasferito a Roma. Tu, Paolo, ti intervisto. Oh, ti ringrazio. Ti cedo anche l'inquadratura. Grazie, ti ringrazio. No, beh, io ho iniziato a fare dei laboratori e ho iniziato come attore. Poi a poco, diciamo, nella triennale al DAMS, insieme ai laboratori teatrali, avevo cominciato anche a scrivere. E quindi a poco ho capito che la scrittura mi permetteva di esprimermi meglio. Ok. E quindi ho accantonato, diciamo, la strada dell'attore. Per, per fare il drammaturgo. Per intraprendere quello, sì, della drammaturgia e della regia. Molto bello, tutto molto bello. Ci sentiamo un pezzo che spero vi piacerà, anche se non potete sentirlo, perché abbiamo solo un paio di cuffiette. E si intitola Blues di Mezzogiorno. Penso sia abbastanza adeguato all'orario caldo che contraddistingue l'orario di questa diretta su Radio Antidoto. Funk Shui Project e Davide Shorty. Sveglia mica così tanto presto, adesso cambio il mondo, esco, mi sento diverso, eppure fino a ieri era tutto così complesso, lei che se ne andava, che non vedeva l'ora di un pretesto, meglio non dare tutto per scontato, ha detto, ma io che ho fatto, ciao Paolino, l'ho dimenticato spesso, non ho mai risposto a tutto quello che mi ha chiesto, ed ora faccio quattro passi insieme al suo riflesso, dovrei farmi male, preoccuparmi, non mangiare, non rispondere al telefono per come sono messo, sfogliato all'eccesso, negato l'accesso ad ogni parte del cervello in cui mi sono chiuso e perso. Ormai le gambe vanno da sé e non c'è neanche l'ombra di un sé. Avessi fatto, fossi stato ciò che vuoi da me, non saremmo a questo. E io non canterei, starei zitto e depresso. Amore, amore, amore, dimmi adesso dove andrò, che un posto fisso ancora non ce l'ho. Oh no, starò a girare le ore attorno a un mucchio di parole, questo blues di mezzogiorno canterò, oh no. Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? E adesso che mi sveglio per davvero ricomincia. Sei accanto a letto con la mia camicia, così come ti voglio, solita giornata grigia, adesso che ti spoglio, solitare un senso alla mia vita. Ma cosa siamo se poi non condividiamo la salita? Meno male che era un sogno, la pandemia mi dà un'aria così ingiallita. Resti quasi stranita al mio buongiorno, perché è quasi ora di pranzo, lo stomaco parla e mi dice stronzo. Allora tu mi passi il solito pacco di abbracci, ed è così strano che sorrida, che tu poi mi abbracci. Io col senso di aver perso un'altra sfida, tu che mi incoraggi. Ho ancora un sogno che mi prende a calci, allora cerco di non pensarci e resto qui a contemplarci. Allora cerco di non pensarci e resto qui a contemplarci, ad imparare come completarci. Amore, amore, amore, dimmi adesso dove andrò, che un posto fisso ancora non ce l'ho. Oh no, starò a girare le ore attorno a un mucchio di parole, questo blues di mezzogiorno canterò, oh no. Amore, amore, amore, dimmi adesso dove andrò, che un posto fisso ancora non ce l'ho, oh no. Starò a girare le ore a mucchio di parole, questo blues di mezzogiorno canterò, oh no. Siamo tornati in diretta qui dal Bar dello Stretto con Paolino che sistema i tavoli, ma Paolino fa delle granite assurde che ci porta ogni volta in un altro pianeta, nello spazio possibilmente. Detto questo, volevamo fare una... No, mamma, io mi sento. Tu ti senti? Allora ti alzo dal monitor, ti senti meglio? E volevamo spendere due parole sul festival Libero Teatro Festival, che è organizzato da Michelangelo Maria Zanghi, nostro non caro, carissimo amico che abbiamo avuto diverse volte in studio alla radio precedente, che non vogliamo nominare, Radio Street. E, esatto. E poi cioè io volevo dire che è un insieme di attività, non solo quella di offrire un insieme, un purpurri di spettacoli teatrali, ma anche di offrire dei workshop, delle masterclass di teatro abbastanza importanti in un luogo non difficile, però comunque che potrebbe segnare meno risposta rispetto a tanti altri, che è quello di Patti, e gli volevo fare i complimenti. Penso che anche i nostri drammaturgi e drammaturghi e attori vogliano dire due parole. Sì, sì, ed è un'iniziativa molto interessante, perché comunque, appunto, come dici tu, a Patti non è facilissimo, insomma, organizzare una cosa del genere, però è stata organizzata anche bene. Ha diviso gli spettacoli in varie sezioni. Ora c'è quella per bambini, c'è quella... C'è quello per bambini, poi adesso si è concluso il Teatro Gourmet, che erano quattro spettacoli su abbonamento, cioè erano spettacoli e poi seguito dalla degustazione, quindi comunque molto interessante. Figata. Poi, sì, sì. Poi e mi... poi è bello perché è il tuo primo spettacolo qua a Messina, Paolo. Sì, sì, infatti sono pure contento... Di questa data, perché appunto, cioè, per la prima volta lo porto a Messina e lo porto tramite un mio amico, perché comunque noi ci siamo conosciuti alla triennale, quindi tanti anni fa, siamo rimasti in contatto anche se non in maniera molto frequente, però ci siamo sempre in qualche maniera tenuti in contatto, aggiornati, e quindi quando è arrivata questa opportunità sono stato molto contento, perché ripeto, a parte che lo conosco, è un ragazzo che si dà da fare in un contesto che non è facilissimo per il teatro, quindi sarà bello rincontrarlo. No, anche. Beh, io c'ho da dire una cosa. E se devi dirla, dilla, il 3x2 con la risposta in offerta. No, che i festival teatrali in realtà a Messina, ma anche in provincia, stanno crescendo tantissimo. Cioè sì, il cortile, sì, sì, a poco, teatro, sì. Di Bonaventura, ne parlavamo prima. Vabbè, quello è che ora anni mi aveva 10 anni. Ma infatti nascono e poi crescono. Sono iniziative interessanti, sì, assolutamente, poco secondo a poco. Me, sì, sì. Non è difficile, più che altro bisogna essere molto tenaci per, esatto, continuare a provare a fare qualcosa di buono anche qua. Esatto, ma infatti... Sempre che mi devi andare contro, comunque, prego, finisci Paolo. No, che questa qua è la prima edizione, quindi sicuramente poi negli anni a venire ce ne saranno altre, e come tutte le iniziative, cioè poi col tempo cresceranno sicuramente. Perché come dici tu, cioè il teatro alla fine, anche in questi paesi a poco si sta sviluppando. E ma meno male. Quindi vengano queste iniziative, male. Assolutamente. Certo. No, ma tra l'altro è stato riaperto l'anno scorso, quando è stato riaperto il Teatro di Barcellona, che è a due passi da Patti. Forse 5 anni fa. È il teatro più... il Mandanici, il teatro più grande della Tirrenica, se non sbaglio. Questo qua non... Come tu che sei di Rometta. Della panoramica, scusa. Mi pare di conoscerlo, se non sbaglio. Può essere quello che è stato incendiato. Ah, sì. Può essere gestito da un nostro amico che è Ivan Bertolami, se non sbaglio. Ora che salutiamo. Non vorrei salutiamolo sbagliare. Comunque. Non vorrei sbagliare. Ciao Ivan. Ciao Ivan. Però il Mandanici, sì, l'ho sentito. Non mi ricordo se è quello di Milazzo o di Barcellona. No, è sicuramente quello di Barcellona. Barcellona. Barcellona. Allora può essere che ha avuto in gestione Ivan Bertolami e Giuseppe Bollicina, che saluto. Sì, è stata una grande riapertura, perché chiaramente Barcellona è molto più difficile di Patti. Vai. No, vai. No, che poi queste iniziative sono anche particolarmente belle, perché non le si fanno in luoghi propriamente deputati per, certo, il teatro, il certo, che secondo me è anche un valore aggiunto, perché, cioè, di fatto secondo me il teatro si può fare in qualsiasi luogo. Siamo d'accordo. E poi il fatto di farlo in un cortile, in un chiostro, cioè secondo me dà maggior risalto. Sì, sì. Lo so che siete d'accordo anche voi. Dà maggior risalto comunque sia alla pièce teatrale, insomma. Sono d'accordo e ti dirò di più. Quando lavoravamo in quella suddetta radio, che non suddiremo un'altra volta, chiedevamo alle persone che si occupavano di teatro che cosa avevano bisogno, che cosa ci fosse di bisogno in questa città oggi gloriosa, e ci rispondevano sempre degli spazi. Chiaramente per spazio non si intende un teatro, si intende uno, sì, spazio, sì, dove poter fare arte. Esatto. La capiamo perfettamente questa necessità, sia per i teatranti che per qualunque altro tipo di performer in generale. Assolutamente. E quindi la domanda, caro Vittorio, viene spontanea. Dove vorresti fare questo spettacolo? Quale sarebbe il posto preferito? No, per esempio ci sono come spazi all'aperto la Villa Zafferia, per esempio. Esatto. Villa Cianciafara, bello. Sì, ma in generale, ecco, cioè, per me non c'è un vero e proprio luogo deputato. L'importante è che però sia uno spazio dove poter fare dove si possano ospitare delle persone. Però prima hai detto una cosa, cioè che quando sposti l'asticella verso uno spazio che non è deputato a questo, lo rendi ancora più importante, ancora più bello. Quale spazio vorresti rivalorizzare con la tua pietra teatrale? Per esempio ci sono degli spazi qua a Messina, primo fra tutti il teatro in fiera, comunque sia... Gli edifici in fiera. Sì, avevano tentato comunque sia con un movimento, insomma, mi sembra che il Pinelli, di riportarlo Eravamo in auge, per esempio. Cioè, tranne Marco non c'era. Tutti questi spazi... Tutti questi spazi che comunque sia, secondo me, andrebbero rivalorizzati. Sempre però la domanda la faccio a Tommaso / Francesco. Cioè diventeresti uomo panino in giro per le strade di Messina? Anche volentieri. Solo per fare un'improvvisazione. La mia dignità ormai non esiste più, quindi volentieri. No, se posso... Madonna, non mi fa parlare mai. Mai. Ho capito, allora, dirò solo le battute. La dittatura del microfono. Fatto, volevi dire. Voleva dire che in realtà l'abbiamo fatto perché a Roma, quando abbiamo fatto la prima al Teatro Belli a Trastevere, nel cuore di Trastevere, abbiamo fatto delle foto in giro, come se Tommaso fosse veramente in giro a pubblicizzare la carta igienica, quindi è stata un'esperienza particolare, che abbiamo fatto una sorta di book itinerante, no? In cui magari le persone che mi vedevano pensavano che io veramente stessi facendo quello che stavo facendo, cioè che ero veramente un sandwich. Vabbè, come si fa a teatro? È stata un'esperienza, diciamo, di metateatro, esatto. Nel senso di teatro dal vivo. Però se posso intervenire su quello che dicevate prima, secondo me più che gli spazi, che sono fondamentali ovviamente le infrastrutture, serve il pubblico. Cioè nel senso, per me il teatro, anche se c'è una persona che guarda, che ha voglia di guardare, è teatro. Quindi ecco perché, rispondendo ad Alessandra, lo farei, perché... Se c'è anche soltanto una persona a cui interessa sentire la tua storia, quello già è teatro. Quindi anche in strada, anche ovunque, no? Per parlare per esempio di chi fa arte in strada, cioè, e sono tanti e sono bravissimi. Basta veramente un gruppo di persone, anche ristretto, che ha voglia di ascoltare, quello per me è già teatro. Poi è come ovvio il teatro che capisco, a casa. Esatto, come il teatro in casa, lo abbiamo fatto anche noi, abbiamo fatto un'esperienza simile perché in piena pandemia abbiamo partecipato a un festival che si chiama Marte Live, in cui abbiamo dovuto fare una versione breve di questo spettacolo da casa, te l'avevo detto, ti ricordi? Sì, con le luci, con le ciabatte, nel senso non quelle ai piedi, ma nel senso che accendevamo e spegnevamo le luci. Ci abbiamo fatto... Sì. Quelle sono le tappine. Esatto, tappine, come si dice in italiano. Abbiamo fatto il tendone, diciamo così, dice, il sipario con le tende vere. Sì, abbiamo fatto delle cose, esatto, si è offeso. Abbiamo fatto delle cose pazze, cioè, quindi si può fare. Sicuramente, l'importante è che ci sia qualcuno che ha voglia di ascoltare. Esatto. E l'importanza degli applausi? Gli applausi sono... Tu ci campi di applausi o... Sì, danno soddisfazione. L'applauso è un ringraziamento per chi ha speso del sudore per spiegarti qualcosa, per farti conoscere una storia. Però non è fondamentale, nel senso il pubblico dal vivo è fondamentale. Sì, certo. Parlando di pandemia capisco la tua domanda. Però in realtà il riconoscimento se ne può anche fare a meno da un certo punto di vista. Io non faccio teatro per avere un riconoscimento, lo faccio perché... ho voglia di comunicare qualcosa a qualcuno. Se la tua non è una risposta politica, hai il mio rispetto. Hai il mio rispetto. Assolutamente sì. Non è fondamentale, diciamo, che ti dicano bravo, ecco, se questa è la tua domanda. Esatto. È fondamentale che ascoltino. Esatto. Va bene, ci sentiamo James Nese con Boogie Boogie Down. When am I boogie my boogie now? When am I boogie now? When am I boogie my boogie now? Me lasciate sul campo, when am I boogie my boogie now? When am I boogie now? When am I boogie my boogie now? Quanti soldi devo fare? buchina, quella ma buchi ma buchina, carte e credita cai alla. Sembra Luigi del video della giunta. Mamma ancora ancora. Mamma schifo. Buona la schifo. Ben trovati, ben ritornati qua nel tempio dei cornetti alla crema, alla chema, scusate. Nel tempio dei cornetti alla chema, da Paolino al bar. E sì, stavamo parlando di teatro, di Messina. Sì, di recente, tra l'altro, Francesco ha fatto anche, avete portato in scena Caravaggio, il progetto di Lelio insieme a di Lelio Buonaccorso, esatto, insieme sì. a Nadia Terranova. Esattamente. Sempre per un'altra rassegna che fanno qua in estate, estate al museo al Mume. Regionale. C'era Lelio che disegnava in contemporanea? Sì, sì, abbiamo fatto una piccola scenetta, diciamo, dal vivo, nel senso che, allora, innanzitutto la rassegna è una rassegna molto bella di teatro estivo. Tra l'altro, non per fare pubblicità, però insomma ci sarò anch'io poi con 900 il 4 settembre. Diciamo che stanno un po' recuperando tutte le date che non si sono potute fare con la pandemia, e quindi praticamente il museo è stato molto disponibile nell'ospitare vari spettacoli. C'è stato anche Roberto Bonaventura, c'è stato i Minasi, insomma ci sono state varie compagnie teatrali, ho sentito in questi giorni, e abbiamo fatto questa presentazione del fumetto di Nadia Terranova con Lelio Buonaccorso. Esatto, sì, in cui praticamente abbiamo pensato di dare un po' vita ai personaggi insieme ad Alessia Di Fiore, che saluto, io interpretavo Caravaggio, ciao Alessia. Ciao Ale. Io, lei faceva la ragazza, ovviamente, non viceversa, pensa un po'. E alla fine abbiamo fatto questa, sì, questa piccola improvvisazione in cui da personaggio io ho chiesto di disegnarmi e lui dal vivo ha fatto, insomma, il ritratto del suo fumetto. È stata una bella serata, ma vorrei ringraziare, insomma, il museo Orazio Micali e tutta l'organizzazione, perché si stanno sbattendo molto anche loro per organizzare, diciamo, il recupero di tutte le date invernali che non si sono potute fare. Ma tra l'altro un museo importante, nel senso, io l'ho visitato e mi è piaciuto molto. Basta, volevo aprire una non parentesi. Lo conosce nessuno a Messina, è vero. Esatto, anche io c'ero stato una volta da bambino per vedere quello da Messina e basta. Volevo aprire una parentesi nel dire che l'hanno rifatto ed è fatto molto bene. Sì. Su questa città che belle cose. Si lamenta. Con la bocca aperta, buddaci, esatto, come diceva Sciacca. Piglia lo bastone e tira fuori i denti. Esatto. E il manifesto di che cosa? Della generazione X, della generazione Zero? Del Partito Comunista. No, non è vero. No, il manifesto e basta. Sì, il manifesto di una generazione, è vero. È quella. Penso almeno, no? Avevi in mente questo? Sì, in realtà era semplicemente a simboleggiare l'omino sandwich. Sì, però poi mi sono reso conto che poteva essere... Cioè, è perfetto per... Sì. Spero che non risulti pretenzioso. No. Cioè, racconti una storia, racconti una storia che è comune, quindi... Sì, cioè nel senso potrebbe... Cioè comune non nel senso dispregiativo sì, del sì, termine. Sì, non ho capito. Sì, no, è, ma infatti... è una storia che affligge tutti, che affligge molti, se non tutti. Sì. Ma tu, Paolo, hai fatto delle... hai intervistato questo ragazzo che hai incontrato a Roma che... No, l'ho soltanto visto quindi per strada. Quindi te lo sei solo immaginato? Me lo sono immaginato. Sì. Sì, che poi di fatto comunque... cioè il personaggio si fa tutta una serie di domande che, credo che meno male ci facciamo tutti sul fatto che anche inseguire un sogno di fatto ha bisogno di una buona dose di coraggio, perché automaticamente c'è la paura della sconfitta. In un periodo in cui comunque siamo sempre sotto giudizio da tutti e quindi siamo in questo senso iperresponsabilizzati, concedersi di essere fragili e quindi di ammettere le proprie difficoltà non è facile. E in questo caso gioca un ruolo Gaia, perché Tommaso è da solo sul palco, Gaia, ma ci sono altri due personaggi dentro lo spettacolo. C'è una voce off del colloquio, e poi nel finale, che magari non svegliamo perché... No, non mi sembra il caso. E poi c'è la proiezione di questo personaggio, si chiama Gaia, che è il primo amore della sua vita, l'amore adolescenziale, che per certi versi, diciamo, sono periodo dell'adolescenza, si vivono quei momenti intensi che poi ti ricordi per tutta la vita. Quindi c'è banalmente il senso della giovinezza, di quando cominci a fare le cose per la prima volta e quindi ti lanci un po' senza paracadute, senza... E poi magari crescendo c'è la responsabilità, quindi dopo l'età adulta, il percorso universitario, la responsabilità verso la famiglia. Ubaci, Gaia è un po' un'isola felice nel suo ricordo, che comunque gli dice delle cose che poi gli serviranno per tutta la vita. Prima fra tutte l'osservazione degli altri, e quindi il capire se stesso attraverso l'osservazione degli altri. Questa era più o meno l'idea di tutto, ecco, e poi si è sviluppata. Ma secondo voi che ruolo giocano i talent show per quanto riguarda la cosa artistica, l'approvazione di una giuria, l'approvazione del pubblico? Io ho fatto il primo per Amici, non scherzo. No, nel senso, non sto scherzando. In un contesto culturale in cui siamo tutti legati ad essere sotto la lente di ingrandimento e ogni nostro passo è legato al giudizio universale di Mika e Compagnia Bella Cantante, secondo voi che ruolo ha questa Compagnia Bella Cantante nel mondo del teatro, nel mondo della vita in generale? No, secondo me, diciamo che, vabbè, a parte che comunque il teatro è abbastanza, secondo me, abbastanza fuori da su questo questione. Sono d'accordo. Però è chiaro che comunque, secondo me, la televisione, il medium di massa in sé, ti fa stare, diciamo, sotto i riflettori. Però questa cosa allo stesso tempo può essere anche una distrazione per poi produrre comunque crescere artisticamente. Diciamo che alimenta un po' un discorso abbastanza sbagliato, che è quello della competizione, dell'approvazione, come dicevamo prima, no? Il talent si basa sul fatto che ci sia una giuria cattivissima, come esatto. Vediamo anche nei talent di oggi. Vuoi che moro? Esattamente, da Masterchef. Uno si vuole fare un piatto di pasta al pomodoro, arriva a Bastiani, fai schifo. Quindi diciamo che anche dal punto di vista artistico questa cosa è prettamente sbagliata, credo. Vergognoso. Cioè il fatto che, esatto, sì. Ci sia innanzitutto una competizione verso qualcun altro, tipo mors tua vita mea, io credo più nella collaborazione, come ho già avuto modo di dire altre volte, e in secondo luogo anche questa spettacolarizzazione del male, del dolore, del fallimento. E invece, insomma, il teatro o comunque la recitazione in generale, l'arte, dovrebbero essere un luogo, un'isola felice, ecco, per citare quello che hai detto. Me le dire le domande, Francesco. Vadi, e a questo punto con chi vi piacerebbe collaborare? Intendi come artisti, dici? Certo. Allora, io credo che a Messina ci siano tantissimi artisti molto molto validi, fra cui noi due. No, sto scherzando. No, a parte no, tantissime persone che emergono poco, e credo che ci sia un po' una dispersione degli artisti messinesi, a parte in giro per il mondo, ma anche un po' quel minimo, sì, anche un nome. Di leggera competizione. No, non ho dei nomi specifici. No, ma non è per buonismo che lo dico. Non si sbottona. Ce ne sono tanti, insomma, ce ne sono tanti. Anche appunto quelli che abbiamo citato prima, da Nadia, Lerio Buonaccorso, da Alessia Di Fiore, tantissimi anche attori che conosciamo, insomma, Luca Massaro, che è un mio grande amico, Ivan Bertolami, Michelangelo Zanghi, insomma, non vogliamo far torto a nessuno, ma non è una questione di generalizzazione, per dire, ce ne sono tantissimi che sono un po' sparsi in giro e ognuno fa un po' la propria cosa, nel senso che ognuno lavora in proprio. Sarebbe bello invece magari creare una stagione di teatro fissa qua, con tutti artisti messinesi che collaborano insieme, che magari anche dal punto di vista produttivo sarebbe più facile da organizzare, perché si potrebbero chiedere dei fondi al ministero, insomma, all'assessorato alla cultura, insomma, ci sono tutte delle cose che sarebbero più facili se ci si mettesse insieme. Certo. E invece si tende a andare chi a Milano, chi a Genova, chi a Roma, io stesso ci vivo, quindi mea culpa, però nel senso, se ci fosse un progetto qua lo farei volentieri, avendo anche un appoggio. Qua c'è una granita, Paolo, che arriva. No, non è nostra. Tu con chi ti piacerebbe? No, gli stessi nomi che ha fatto lui, anche Michele Zanghi, comunque, che molto spesso ne abbiamo parlato, insomma, di fare qualcosa assieme, quindi magari prima o poi lo faremo. Poi sarebbe bello anche, io ci ho sempre pensato, ma è difficilissimo, e quindi non so se è difficilissimo creare un... Ah, ok. Creare un gemellaggio, per esempio, fra Roma e Messina, e quindi creare una stagione teatrale lì, oppure una rassegna, un festival con della drammaturgia siciliana. Scusami, che su questo non sono d'accordo. Io vorrei farlo qua, perché secondo me qua mancano queste cose, a Roma non mancano. Quindi io, non è per buonismo che lo dico, però preferirei che si facesse in loco, perché secondo me la gente ha voglia di venire, il pubblico ci sarebbe anche. Il problema è che non ci sono gli spettacoli. Sì, no, ma io non dicevo per chiaramente qui, sì, però... Non sono in contraddizione le due cose. No, dicevo semplicemente a Roma, anche per far conoscere maggiormente, certo, la drammaturgia siciliana, comunque delle compagnie ottime che abbiamo, e quindi esportarle anche e altrove. E se dovessimo volare un po' con l'immaginazione... E chi ti piacerebbe dirigere in uno spettacolo? Ce ne sono tanti. Mi ricordo io ai tempi, quello che ritengo magari dal punto di vista della scrittura ancora un maestro, anche se poi, diciamo, sto cercando anche di trovare una mia strada poco a poco. Comunque Tino Caspanello mi è sempre piaciuto tantissimo, quindi... nei suoi spettacoli, comunque, quei silenzi, quel ritmo, quelle pause mi sono sempre piaciute, quindi... Ti piacerebbe lavorare con lui? Assolutamente, sì. Hai visto, Vittorio, quante cose che si scoprono? Come si chiama il nostro preferito, quello lì con cui vogliamo lavorare noi? Rosario Palazzolo. Esattamente, lui, il nostro. Allora, ragazzi, io vi dico questo. Coupe de Grace, Chaos One, 4 minuti, ci ritroviamo qua. Saluti. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima, tutto come prima, tutto come prima. Oggi è il domani di ieri, stessa partita, tsunami di mille pensieri, piazza pulita. Ora falla finita, se rimani in astinenza, i sogni in questa vita hanno una data di scadenza. E se la differenza è come ne usciamo fuori, è tutta sta esperienza, il nome che diamo agli errori. Siamo gli stessi attori, gli stessi spettatori, se andiamo in scena in questo circo degli orrori. Peghino signori, abbiamo numeri mai visti, i migliori pagliacci, nani e gli equilibristi. Siamo professionisti oppure i peggiori scrausi, crepiamo sotto i fischi, campiamo di applausi. Ci siamo quasi, il momento è arrivato, il pubblico ora è pronto, il palco è già illuminato. La parte del racconto che non ti hanno mai svelato, indovina chi è che paga il conto. Indovinato. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua. sicura. È la caricatura complessa e contorta, uno scherzo della natura. È una natura morta, ma poi che importa, tanto è l'ultima ripresa. Con la coscienza sporca per legittima difesa e la memoria corta che sopporta ogni offesa. Se la corda sulla forca ora è sempre più tesa. Sorpresa, è stata tutta un'illusione, un'attesa di un finale che è uguale a una confessione. Ad un nome che adesso vale sempre meno, perché sale la tensione, perché sale il veleno. Perché non lo sapremo e cercheremo i vostri sguardi e non li troveremo, perché sarà troppo tardi e saremo più bastardi, più indifferenti dal teatro dei bugiardi. Applausi e complimenti. E se stacchi la spina lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, nome in vetrina. E anche se stacchi la spina lo spettacolo continua ed è tutto come prima, tutto come prima, tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, nome in vetrina. E anche se stacchi la spina lo spettacolo continua ed è alla fine delle nostre energie, questo caldo che si sta squagliando, come dicono a Roma. E... ragazzi, che vi aspettate da questo spettacolo a Patti? Siamo molto felici perché insomma siamo due persone del luogo, campaniliste, almeno io, quindi molto felici di essere qua. Sì, ma non esserlo prima. Troppo, te l'ho detto... Come? Te l'ho detto fuori onda. Che cosa? Che gli artisti messinesi non sono secondi a nessuno, però pure quelli di fuori, cioè non è che sono secondi ai messinesi. Esatto, questa frase ci tenevo che la ripetessi, quindi te l'ho lanciata. Mi hai imboccato. Siamo molto, molto contenti di essere qui, perché insomma, bello tutto, bello Roma, bello il mondo, bello Broadway, però anche stare nella propria città, insomma, è il sogno più grande. E che se lo viassero. Esatto. Quindi siamo molto contenti di partecipare a questa cosa. Il nostro sogno era quello di portarlo nella nostra città e quindi obiettivamente ci siamo levati già una grande soddisfazione. Speriamo che sia solo l'inizio, abbiamo altre possibilità, però intanto vi aspettiamo tutti il 21 giorno agosto 21 alle 21 al chiostro del 2021 al chiostro di San Francesco di Patti. Bravo, non sappiamo se Marina o Superiore, però lo scoprirete tramite Google Maps. Esatto, se cercate il chiostro di San Francesco di Patti sarà quello, non esatto, è che potrete sbagliarvi. Esatto. Paolo, che ti aspetti dallo spettacolo? Vabbè, intanto mi aspetto che spero in una bella serata, nel senso di passare dei bei momenti assieme, divertirci, guardare uno spettacolo che funziona e condividere insomma una bella serata in questo spazio che comunque ho visto dalle fotografie è bellissimo e quindi insomma una serata tra amici prima di tutto, il pubblico è un amico fondamentalmente, quindi... E sarà sicuramente così. Eh sì. Secondo me sarà così. Poi tra l'altro le scelte di Michelangelo secondo me sono sempre quasi sempre al top. E sì. Quasi sempre. Ora non è che posso imbrodare, chi loda imbroda, lo sappiamo. Imbroda. Yeah, yeah, yo. E, ragazzi, ci vediamo il 21 allora. Grazie dell'ospitalità, Vitto, ti vogliamo grazie. Bene. Grazie. E grazie Alessandro. Siete forti. Grazie. Alessandra Mammoliti con le sue bocce, dove va? Da te, a casa tua. Che top. A bocce ferme sono questi i risultati di oggi. Grazie Radio Antidoto, grazie Fred per averci iscritto. Noi ci sentiamo in questi giorni. Ciao! Ciao.